In questo spettacolo vorremmo, come canto sociale, ringraziare Conchetta, che è sempre stato il luogo dove abbiamo fatto le prove, dove ci siamo incontrati, dove abbiamo avuto modo di conoscerci, c'è una lunga tradizione, è un luogo dello spirito a cui siamo particolarmente legati. E vorremmo anche, inizialmente, prima di cominciare in maniera più seria, dedicare questa serata a Phil Lesh, il bassista, uno dei fondatori dei Grateful Dead, che è scomparso a 80 anni nell'ottobre scorso. Grazie, mi sembra doveroso. Devo dire, e non voglio dilungarmi più di tanto, che Phil Lesh, il bassista, è stato quello che maggiormente ha influenzato Jerry Garcia, Bob Ware, Bill Kreutzmann e Rock McKern, gli altri 5 fondatori dei Grateful Dead, a sviluppare questa particolare tematica delle jam session, delle jam come peculiarità del gruppo nell'ambito della musica psichedelica, che è diventato un marchio di fabbrica dei Grateful Dead. Ma vorremmo dedicare anche questa serata a Bruno Cartosio, che è molto noto qui a Conchetta. Lo dedichiamo a Bruno Cartosio perché ultimamente ha subito un ictus e ne è in via di guarigione, quindi vogliamo approfittare per fare tutti insieme gli auguri a Bruno, che comunque sta meglio, l'abbiamo visitato in ospedale e è sulla via della guarigione. Vorremmo dedicare anche questa serata, per motivi abbastanza analoghi, purtroppo questi temi, a Rosangela, del collettivo redazionale di Radio Onda d'Urto, una compagna che conosciamo da anni e che anche lei ha subito un ictus una settimana fa, e anche lei in via di guarigione, e vorremmo fare tutti gli auguri possibili perché la vita prende il sopravvento sulle tematiche di morte che ci avvolgono in questi tempi non propriamente allegri. Ecco, iniziamo prima del concerto con un breve video dedicato invece a Matteo Guarnaccia, proprio perché questa era una 2 giorni dedicata alla psichedelia. Ieri è stata una serata molto interessante, anche molto seguita, sui Grateful Dead con dei video e anche poi sulla controcultura e sulla psichedelia in genere. Ma l'omaggio che abbiamo fatto, che ha realizzato, e qui va un applauso pieno a Stanley, Nicola, che ha realizzato non solo quel bellissimo manifesto che ci invidiano tutti, quella locandina, ma ha realizzato anche questo breve documentario, tra l'altro cogliendo vari momenti degli interventi di Matteo Guarnaccia, che non stiamo qui a spiegare chi era, grandissimo artista, diciamo l'artista con la maiuscola della psichedelia italiana, e che qui proprio al Coxa ha realizzato numerose serate nella sua grandezza, sia da un punto di vista grafico che anche con dei reading, quindi anche proprio con la sua presenza psichedelica controculturale in pieno. E Stanley l'ha colto proprio nei vari momenti, ed è questa è la miglior dedica a Matteo, che è mancato purtroppo un paio d'anni fa. Grazie. Allora, grazie di essere venuti qui stasera. Tutto questo è atti di bellezza senza senso. Ora io ho in mano in realtà un set di libri di Guarnaccia. E comunque noi questo fatto di aver fatto 25 anni di lavoro di Matteo Guarnaccia, come dice qualcuno nell'introduzione, forse Gianni De Martino, non so se lui o un altro, ma comunque mi scuserà, qui c'è un mucchio di dediche dentro il libro, c'è un pezzo di storia in questi 25 anni di lavoro di Matteo,

È uno di noi, è vero, è uno di noi, e noi abbiamo avuto la possibilità di poter usufruire della sua arte. Non dico come e dove, perché non è il momento, però ne abbiamo tutte usufruito. Lui ci ha fatto un Polifemo in casa, devo dire. Mentre io gli preparavo pasta al pesto genovese, gli rollavo le canne mentre lui disegnava. Questo è uno dei ricordi più indelebili della mia vita, devo dire. Beh, adesso è il momento però di fare lo spettacolo. Tanti sono venuti qua, di questo sarebbe che anche ora. Sarebbe anche ora. Beh, questo intanto dobbiamo dire cos'è, non è un concerto. Chi è venuto per seguire un concerto, questo non è un vero e proprio concerto, ma non è neanche una lezione di economia, perché sennò non sarebbero venuti qua il sabato sera. Che palle. Ma noi ce lo siamo un po' inventati, perché riprendendo anche quei concerti di esperienze multisensoriali anche di Hendrix, l'abbiamo chiamato un Econo Music, che è un po' qualcosa che mette insieme qua e là contro informazioni di economia, una storia soprattutto di una grossa band, la band probabilmente più grande della psichedelia, che è quella dei Grateful Dead, ed è un omaggio a quella band, ma anche un omaggio poi in realtà nella seconda parte a chi soffre e al cantare il lavoro di oggi, al cantare il non lavoro di oggi, che è il precariato. Beh, i Grateful Dead sono una band ancora abbastanza misconosciuta purtroppo in Italia, e comunque noi cerchiamo nel nostro piccolo di porre rimedio a questo, facendo ascoltare qualcuna dei loro brani all'interno di un contesto che è quella controinformazione, quel racconto fatto da un ragazzino che aveva tante belle idee, e questa è una storia parallela anche quel ragazzino, di come ha sviluppato quelle idee di economia affiancate al rock. Andrea. Quando ero piccolo, durante il periodo del liceo, a metà degli anni 70, quando stavo affacciandomi alle prime infatuazioni amorose e politiche, mi domandavo, ed era un cruccio questo, se passati 20, 30 o più anni avrei potuto dire di aver vissuto e non vegetato. Adesso, a distanza di 50 anni, posso dire che sì, anzi, abbiamo vissuto. Il semplice fatto di essere stati noi stessi ci ha portato sull'altro lato della barricata. Non ce ne eravamo neanche accorti, è stato naturale. Nel nostro piccolo abbiamo sviluppato forme di controcultura e di contropotere, direi una microfisica del contropotere. Non abbiamo ottenuto nulla, se non stress e frenesia, ma anche qualche gioia. Ma senza saperlo, abbiamo disseminato quei germi e quei virus che anche attraverso l'illegalità hanno spostato in avanti l'asticella dell'innovazione sociale e della stessa legalità. Però noi che volevamo abbattere il sistema sociale, dobbiamo ammettere che il sistema è sopravvissuto proprio grazie a queste innovazioni ed è mutato così velocemente da rendere alla fine noi obsoleti. Ecco, questa è la storia non solo di una band, ma anche di un pezzo importante della controcultura made in USA. Nata sulla costa ovest, che proprio perché è stata catturata e inglobata nell'establishment americano ha permesso a questo stesso sistema di rigenerarsi. Senza i Grateful Dead sarebbe nata la Silicon Valley e la rivoluzione digitale? Il loro linguaggio sarebbe entrato nel reticolo della produzione? L'attività lavorativa avrebbe preso quella direzione illusoria di liberazione che invece oggi si è tramutata in una gabbia forse ancora più feroce di quella rappresentata dalla catena di montaggio? For a while, I've been jingling, jingling, the midnight sun. Cup, body, dripping, sitting up. Kimono, like a star, time with town and down and town hall. Crazy pig into her lace, bandana like a wine, like diamond a jail, and she old leaf of a color plays a golden, steam fiddle to a double, a waterfall all over my back. China cat, China cat, China cat. Il 14 ottobre 1964, Lee Felsenstein, ingegnere fallito che dopo un'esperienza lavorativa alla NASA venne licenziato perché sospettato, secondo i criteri del maccartismo vigente all'epoca, di essere, pensate un po', comunista, prese un treno per tornare a Berkeley dove si era laureato. Lee aveva ascoltato per radio le notizie sulle dimostrazioni studentesche che erano cominciate proprio là da 2 settimane. Le aveva prese per una moderna versione dei leggendari raid goliardici del 1952. Ma al suo ritorno trovò l'intera comunità studentesca impegnata con il Free Speech Movement. La questione era dannatamente seria. Gli studenti, pensate un po', chiedevano di avere voce in capitolo nelle scelte accademiche dell'università per contestare l'asservimento dell'apparato militare industriale che stava preparando la guerra in Vietnam. La segretezza è la chiave di volta di tutte le dittature, si leggeva scritto sui muri. Lee Felsenstein si decise di fare il salto. Passò dalla parte dei rivoluzionari e avrebbe usato la tecnologia per alimentare la rivolta. Si fece promotore di diverse iniziative per diffondere la cultura informatica e consentire alle persone comuni di familiarizzare con i computer. Lo scopo, diceva, combattere l'approccio industriale che favorisce il monopolio della corporation informatica. Che novità! Si crea la community memory. La gente si trovava il partner per giocare a scacchi, per studiare, per far accoppiare il proprio serpente. Giravano consigli sui ristoranti e sui dischi. Venivano offerti servizi come il babysitteraggio, passaggi in auto per tutti gli Stati Uniti, battitura dei testi, persino lettura dei tarocchi e interventi idraulici. L'utopia digitale che ne seguì vede nella democratizzazione del macchinico e nella possibilità di accedervi a costi molto bassi e in modo comunitario il principio di un nuovo modello di accumulazione e produzione in grado di essere autonomo e indipendente dalle gerarchie sociali e tecnologiche imposto dall'apparato militare industriale. Non è più come per la filosofia hippie la ricerca di spazi incontaminati in un altrove dal sistema capitalistico, ma il tentativo di ritagliare spazi di autonomia e alterità nel sistema capitalistico di produzione, col tentativo di guidarlo, anzi dirottarlo, deturnarlo, modificarlo, renderlo forse più umano. In questo contesto si inserisce ed è importante il rapporto con la psichedelia. È lo stesso Steve Jobs a dire che la sua esperienza con l'LSD è stata una delle due o tre cose più importanti che abbia mai fatto nella vita. Controcultura, economia, psichedelia, finanziaria. Thank you. Sociale. Dalla controcultura si passa alla cybercultura e dal capitalismo fordista a un'idea di capitalismo digitale, quello che oggi è il capitalismo delle piattaforme. Il lavoro informatico digitale tende così a farsi impresa. Si apre la questione dei diritti di proprietà intellettuale, ossia dei brevetti, dei copyrights, non più applicabile all'attività umana per valorizzare la creatività dell'individuo, ma alla forma impresa, quindi a protezione e salvaguardia del capitale. In tal modo la conoscenza tecnica viene tacitata ed espropriata all'interno di una logica di mercificazione capitalistica e tutto avrà un prezzo. In questo contesto i Grateful Dead imperterriti permettevano ai loro fans, i The Deads, di accedere durante i loro concerti direttamente ai mixer e registrare gratuitamente i live, non facendo certo felici i loro produttori discografici. Si crea negli anni 80 e 90 la virtual community, che sostituisce la memory community, la fabbricazione di hardware e la produzione di software diventava sempre più monopolio delle nascenti corporation della Silicon Valley o della Route 126 di Boston, ma non altrettanto poteva dirsi per la colonizzazione dello spazio virtuale. L'inesistenza di confini nel World Wide Web rendeva impossibile, almeno nel breve periodo, a quei tempi, qualsiasi tentativo di enclosure, ovvero di mettere a recinti. Il 1985 è stato l'anno della svolta. Prende avvio la prima comunità virtuale, The Well, The Wall Earth Electronic Link, una rete di computer tra loro collegati, che ambiva a creare uno spazio di discussione comunitaria via web finalizzato a promuovere prodotti, attività e azioni che aiutassero gli individui a trovare la loro guida per creare il loro ambiente di vita, condividendo l'esperienza con chiunque fosse interessato. Era la conferma che in ogni caso le nuove tecnologie digitali, anche se inserite all'interno di una logica capitalistica, possono ancora aprire spazi di liberazione, però se sono in grado di sfuggire alle forme di controllo messe in atto dalle gerarchie dell'apparato militare industriale e di quello statale capitalista, che da sempre prosperano sulla guerra, strumento tremendo e prezioso per alcuni, per far ripartire l'economia dopo i periodi di crisi, e noi oggi lo sappiamo bene. Si lotta contro il profitto a tutti i costi, si aprono le prime sperimentazioni di peer-to-peer production, nascono gli albori di quello che diventerà negli anni 2000 la sharing economy. La lotta contro il profitto a tutti i costi, al di sopra di tutto, denaro e sangue. La globalizzazione diventa il nuovo napalm, un tempo usato a mani basse in Vietnam, oggi come clava per lo sfruttamento e la depredazione ambientale. Ieri come oggi i Grateful Dead lo cantano. Commissari e padroni in gessato tirano i dadi. Comunque cadano, indovinate chi è che ne paga il prezzo. sangue in cambio di petrolio, sganciando bombe oggi, vendere armi, violentare la terra oggi. E così i bambini ballano e scuotono le loro ossa e i politici lanciano pietre, cantando cenere, cenere, e tutti cadono. Poteri senza cuore cercano di dirci cosa pensare. Se lo spirito dorme, allora la carne è inchiostro. Il futuro è qui, siamo noi, siamo da soli. Febbraio del 1996, Johnny Perry Barlow, un giornalista informatico ed esperto di tecnologie digitali, nonché uno dei fondatori della Free Electronic Foundation, ma per inciso anche uno degli autori dei testi dei Grateful Dead, si trovava a Davos per assistere alle riunioni del Forum Economico Mondiale, che come sappiamo è un summit che raccoglie l'establishment politico-industriale dell'oligarchia globale. Guardando il notiziario della sua camera d'albergo, quello della CNN, Barlow apprese in diretta che era stato approvato dal Congresso americano il Telecommunication Act, una legge che aveva come scopo la regolazione della comunicazione su internet, con la scusa di limitare l'accesso alla pornografia in rete. Venivano introdotti una serie di vincoli sul linguaggio, con il rischio di limitare notevolmente la libertà di espressione. Di getto scrisse la dichiarazione del indipendenza del cyberspazio. Governi del mondo, stanchi giganti di carne e di acciaio, io vengo dal cyberspazio, la nuova dimora della mente. A nome del futuro chiedo a voi, esseri del passato, di lasciarci soli. Non avete alcuna sovranità sui luoghi dove ci incontriamo. Noi non abbiamo un governo eletto. Io dichiaro che lo spazio sociale globale che stiamo costruendo è per sua natura indipendente dalla tirannia che voi volete sporci. Riemergono i temi della libertà di espressione, quel free speech che era la base delle rivolte studentesche di Berkeley nel 1964. Un filo rosso che non è mai venuto meno e che ha accomunato due fasi di forte rivoluzione sociale e culturale. Prima, lo sviluppo della controcultura dei tardi anni 60, che ha accelerato la crisi dell'establishment dell'apparato tecnomilitare taylorista e del capitalismo fordista. Poi lo sviluppo della cybercultura, che in questo posto, in Conchetta a Milano, ha avuto un esempio eclatante, che ha accompagnato la nascita e la diffusione, con tutte le sue contraddizioni, del nuovo paradigma del capitalismo cognitivo. Un paradigma basato sull'utilizzo possibile e potenziale delle tecnologie digitali per la libera circolazione dei saperi, la cooperazione sociale, l'intelletto generale e lo sfruttamento per un uso a favore del genere umano delle economie di apprendimento e di rete. Thank you. Grazie. Nell'agosto del 1967, Robert Hunter, paroliere dei Grateful Dead e amico da lunga data di Jerry Garcia, era in Messico, come era uso, fra gli hippie dell'epoca. Ricevette una comunicazione dallo stesso Jerry, mentre col gruppo stavano lavorando su Alligator, brano che sarebbe comparso sul long play Anthem of the Sun. C'era un riff di chitarra che doveva assolutamente ascoltare, per fare una nuova canzone ovviamente. Hunter si mise in viaggio, ma poiché non aveva soldi ed era spesso fatto di metedrina, ci mise circa un mese ad arrivare a San Francisco. Phil Lesh, il bassista del gruppo, andò a prenderlo in macchina e lo portò a Rio Nido, un sobborgo di San Francisco. Garcia gli fece sentire il riff di chitarra e lui iniziò a pensare le parole. Qualche giorno dopo, seduto su una panchina al Golden Gate Park di San Francisco, con un quaderno aperto sulle ginocchia in cui stava scrivendo dei possibili versi, gli si avvicinò un giovane hippie che gli allungò un joint, quello che noi chiamiamo canna, dicendo: può darsi che questo ti sia d'aiuto, nel caso questo joint si chiama Dark Star. Hunter iniziò a fumarlo, ma una parte cadde in cenere. In quel momento gli venne in mente una poesia di Thomas Eliot, The Love Song of J. Alfred Prufrock, e quei versi che facevano: Shall we go, the new and high? Shall we go, you and I, while we can, through the transitive nightfall of diamonds? La stella oscura si schianta versando la sua luce nelle cenere. I brandelli della ragione, le forze si staccano dall'asse, il faro proietta per le faglie nelle nuvole dell'illusione. Andiamo io e te finché possiamo attraverso il crepuscolo transeunte dei diamanti. Lo specchio si frantuma in riflessi informi di materia, una mano di vetro si dissolve in fiori di petali di ghiaccio che ruotano. La signora in velluto si ritira nelle notti dell'addio. Andiamo, io e te, finché siamo in tempo, attraverso il crepuscolo transeunte dei diamanti. Nasce così Dark Star, il testo più psichedelico che sia mai stato scritto, breve, per una musica di 23 minuti, ancora oggi quintessenza insuperata della psichedelia rock. Thank you. Reflection of mother. Glass and dissolving in ice petal flowers revolving. In the night of goodbye, shall we go? Mauro Apicella, la chitarra elettrica. Gianni Rota al flauto. Gabriele alla batteria. Davide al basso. E qui finisce la prima parte, quella più psichedelica. Ma si era capito che era psichedelica un po' il tutto? No, no, Tommaso, nelle idee. Cioè, beh, dobbiamo dire che per questo spettacolo si sono mossi in tanti. Noi abbiamo visto, a parte tutti gli amici, compagni qua del Cox e dell'archivio Bruno Moroni, ma abbiamo avuto anche degli interventi dall'alto, addirittura dal cyberspazio abbiamo un contributo video che addirittura è venuto dal nostro fratello, possiamo dire un nostro compagno, il compagno John, che dall'altrove del cyberspazio ha lanciato un messaggio ai precari di tutto il mondo. Ecco, se... Ehi! E ce ne stiamo qui con le mani in mano? E che cosa dovremmo fare noi adesso? È finita, amico. Hanno approvato il collegato lavoro. Cosa? Finita? Hai detto così? Mettiti in testa che possiamo fargli causa con San Precario. E la forza è finita col pacchetto Treu? O con la legge 30? Treu? Mica me lo ricordavo. E ora si fanno questo condono. E allora i nostri diritti? Facciamogli causa! Chi viene con me? Coraggio, andiamo! Che cavolo vi ha preso i precari che conoscevo? Dov'è il vecchio spirito? Non avete più fegato, eh? Questa potrebbe essere la nostra più grande battaglia, ma voi vi lasciate ricattare. Abbiamo paura che non ci rinnovino il contratto. Dobbiamo pagare il mutuo. Sapete che vi dico? Prendetevela pure nel culo, io no! È il momento di muoversi, cazzo! Ehi, contratto interinale, causa! Coco Pro, causa! Contratto a termine, causa! San Precario ha ragione. Andiamo dagli avvocati del santo e lottiamo insieme a loro. Non ci chiedono la tessera come quegli altri. Quelli che hanno fatto passare le peggiori leggi sulla nostra testa. Quelli che si svegliano ora a dirci che il collegato è una merda. No, no, no. Il santo dei precari siamo noi. La cospirazione precaria è la nostra arma per batterli. Insieme possiamo farcela. Diciamolo a tutti quelli che conosciamo e inondiamoli di cause a valanga. E dipende soltanto da noi. Facciamolo. Facciamolo! Via! Via! Via! Via! Via! Via! Un grande applauso a chi doppiava John Belushi. Chi è che ha indovinato chi doppiava John Belushi? Andrea Fumagalli, il nostro John Belushi dell'economia italiana. Allora, ma non è finita qui, non è finita qui, perché noi vi stupiremo, anche perché quando hanno saputo di questo spettacolo, che ormai è un anno che rompiamo poi i coglioni qua al Cocchetta, no? Sostanzialmente, anche dal Parlamento italiano, ma che dico, dal Ministero dell'Economia, sapendo del nostro spettacolo, il ministro Giorgetti è intervenuto così. Qui non è da cyberpazzo, arriva prima. Giorgia. Un concetto deve essere chiaro, perché a mio giudizio tutta questa discussione è viziata. È viziata dalla allucinazione psicadelica, senza tornare, psicadelica. Ha capito tutto che la psichedelia è importantissima nell'economia. E infatti stanno andando avanti a psicadelicazzate. Benissimo. Oggi, Stanley, c'è un po' un richiamo, vedi, ho un po' un volume, più che altro c'è un po' di eco, scusa. Oggi qualcuno potrebbe dire che non è più come una volta, il lavoro in fabbrica, quello alienante, quello faticoso, beh, quello ormai non c'è più, no? Non esiste più naturalmente, però se lo escludiamo per i migranti, per gli altri, per quelli che non sono come noi. La rivoluzione tecnologica ha modificato la qualità del lavoro. Si lavora nella maggior parte dei casi non più coi muscoli e in modo ripetitivo. Finalmente si lavora con la testa. Oggi si lavora sempre più facendo ricorso alla memoria, all'apprendimento, alle competenze sviluppate con la formazione e lo studio, con i sentimenti, con le relazioni, con il cuore, il cervello, i nervi, con l'empatia. Insomma, con le facoltà vitali di noi esseri umani. Beh, quindi... Finalmente. È diminuito lo sfruttamento? Beh. Di sicuro c'è meno la percezione dello sfruttamento, inteso in modo classico, di vendere il corpo alla macchina. Ma il fatto è che oggi vendiamo la vita alla macchina. Assistiamo a uno sfruttamento meno percepibile, ma più pervasivo, di gran lunga superiore a quello della fabbrica taylorista. È più sottile, ma invade tutto. Tempo di lavoro e tempo in un lavoro, produzione, consumo, produzione, riproduzione. E la prostituzione del cervello è spesso di gran lunga superiore e peggiore della prostituzione del corpo. In ogni caso, oggi come ieri, il corpo rimane ancora merce di sfruttamento, anche fisico. Dietro un lavoro concettuale, un lavoro cognitivo, se ne nasconde sempre uno manuale, un universo di lavoro in gran parte precario, che comprende ancora minatori che estraggono le materie prime dalle terre rare ai dati, con i clic sui tasti di un computer, esattamente come gli operai che assemblano i pezzi, i trasportatori, i magazzinieri. I lavori manuali, spesso ancora pesanti, resistono accanto a quelli più leggeri, degli addetti ai call center, gli ingegneri informatici e i produttori di linguaggio, i creativi di pubblicità e i venditori di illusioni e di brand, fino ai click worker che allenano gli algoritmi a comportarsi da umani al servizio dell'intelligenza artificiale. Ma soprattutto, oggi come ieri, si muore sul lavoro, ancora, in tutte le parti del mondo, che siano più o meno evolute e tecnologicamente avanzate. Anche in Italia si muore, ogni giorno. Il lavoro vuole sacrifici umani, il capitale li vuole ancora, oggi come ieri. Well, the Maneskin News, that's the best in number five, and Famiglia is a standing at the gate. The inspector is a goal, say a number five and every goal, and the man most likely won't come out alive. Oh, waiting at the gate, we are waiting at the gate. Small and fire, just a roll, on the run and down you go. Well, the mind is always at the gate. Aspettando al cancello, aspettando al cancello, fumo e fuoco rivolgono in quel pozzo buio e mortale. Mentre le mogli e i figli aspettano al cancello, l'ispettore anni fa disse che il numero 5 era una buca mortale e gli uomini probabilmente non ne sarebbero usciti vivi. E le famiglie aspettano al cancello numero 5. The inspector told the boss, it was more than a year ago, you are risking this man life in number five. There's all full of human dust, full of various crossing gas, but the boss suggests you have to take the chase. Waiting at the gate, when I'm waiting at the gate, snorting by a chest of gold, l'ispettore disse al padrone più di un anno fa, stai rischiando la vita degli uomini nella miniera numero 5, è pieno di vapore e polvere, è pieno di gas esplosivo. Tutti dissero che un giorno di lutto sarebbe arrivato, ma il padrone disse, corriamo il rischio, dobbiamo lavorare per quadrare i conti, lavorare, devono tornare i conti. E le mogli e i figli aspettano al cancello, e le mogli e i figli aspettano al cancello. When I preaches, I can hear the church involved ringing on and on the 11 dead. I can hear the families weeping in the street. Oh, waiting at the gate. We are waiting at the gate. Smoking by just the road. From the London line to go. The maestro is at the gate. And this explosion struck on Wesley, and the stopper by this Saturday did delay my daddy out with the other man. In the pocket of his shirt I fall in a naughty road, never gone down in a dangerous man again. Oh, cercavo di vedere i volti che avevo visto tante volte, mentre gli uomini venivano portati fuori avvolti in coperte. Sentivo suonare le campane della chiesa per 112 morti. Vedevo le famiglie piangere nelle strade. Aspettiamo al cancello, aspettiamo al cancello. L'esplosione fu di mercoledì e rimasi al cancello fino a sabato, finché tirarono fuori mio padre insieme agli altri. Nella tasca della giacca trovai un biglietto scritto da lui: mai più scenderò in un buco pericoloso come quello, non dobbiamo scendere mai più. E fumo e fuoco rivollo in quel pozzo buio e mortale, mentre i figli e le le mogli aspettano i loro minatori al numero 5. We are waiting at the gate. Smoke and fire, just a robot from the dark night of the old. Well, the miners hid away inside the gate. Well, the miners hid away inside the gate. Well, the miners hid away at the gate. Woody Guthrie, Waiting at the Gate. Le politiche del lavoro neoliberiste si basano su due presupposti semplici e accattivanti se li si guarda superficialmente. Il primo è il concetto di flex security, che tanto piaceva alla sinistra riformista e al sindacato concertativo. Ovvero l'unione di flessibilità e sicurezza sociale, non quella dell'ordine pubblico che è di moda oggi, e che rappresenta la linea maestra della deregulation del mercato del lavoro, logica conseguenza dell'ideologia delle compatibilità economiche. La flessibilizzazione apre a nuovi contratti di ingresso nel mercato del lavoro, frantumando il modello del contratto di subordinazione tempo indeterminato, creando in tal modo una nuova figura molteplice di lavoratore e lavoratrice. Tutto ciò secondo i dogmi della dottrina neoliberista che ci hanno imposto a vari livelli. Tutto ciò avrebbe dovuto favorire una maggiore produttività e una maggiore crescita economica, incrementando l'ingresso nel mercato del lavoro in forme più convenienti. Tale crescita, poi, questa crescita economica così millantata, avrebbe poi dovuto consentire il reperimento di quelle risorse per creare, in un secondo tempo, la creazione di un adeguato sistema di sicurezza sociale, soprattutto per il lavoro precario. Primo tempo sacrifici, secondo tempo compensazione. Non è una storia nuova, soprattutto in Italia. Anche la Chiesa è così. Anche così, sì. È vero. Questo è vero. Ma tutto questo non si è mai realizzato. Noi stiamo vivendo il primo tempo da oltre 35 anni. La flessibilità è tracimata in precarietà. La precarietà da condizione atipica è diventata la norma. E il secondo tempo? Ve lo potete scurdà! Il secondo concetto, warfare, presuppone l'esistenza di un sistema di welfare non più universale ma selettivo, condizionato dalla ricerca di un posto di lavoro. In tale contesto, solo chi si sottopone a forme di controllo, solo chi è occupabile, solo chi è disposto a mettersi a disposizione per qualunque mansione, può accedere ad alcuni sussidi, alcuni necessari per campare e neanche poi tanto dignitosamente. Ma il diritto all'esistenza e all'autodeterminazione non può, non deve rientrare in una politica attiva del lavoro, non deve sottostare alla violenza economica del ricatto. I germi, i virus di questo sistema neoautoritario e di queste politiche neoliberiste, ben rappresentate dal governo attuale, affondano però le radici nei governi precedenti. Del resto, il Jobs Act le ha certificate e rafforzate, rendendo il lavoro del tutto precario. E allora questa è una canzone che è anche un gospel, per cui vi chiediamo anche a voi di rispondere, no? Di rispondere. A Jobs Act non sta sereno, che con le mani in tasca noi non staremo insieme a noi. A Jobs Act non sta... Aspetta, allora, però qui cantiamo, siamo come la sinistra, ognuno per i cazzi suoi. Aspetta un attimo. Allora, facciamo le piccole prove. 1, 2, 3. A Jobs Act non sta sereno, che con le mani in tasca noi non staremo. Zack non sta sereno, che con le mani in tasca noi non staremo. Schiavitù no grazie, caro Matteone, non son più gli anni dei campi di cotone. Questa riforma ci dice un tocca sana, solo per i padroni che risparmiano la grana. Insieme a Giozzac non sta sereno, che con le mani in tasca noi non staremo. A Giozzac non sta sereno, che con le mani in tasca noi non staremo. Se sei un rompiballe fai valere il tuo diritto, da domani stai a casa, così impari a stare zitto. L'azienda a poche discussioni, poi ti indennizza adesso fuori dai coglioni. Ah, non sta sereno, che con le mani in tasca noi non staremo. Ah, non sta sereno, che con le mani in tasca noi non staremo. Sotto i belli annunci, sotto la apparenza, restiamo senza diritti, questa è la sostanza. La vera rottamazione che hanno fatto loro sono le nostre vite insieme.

lavoro, bel lavoro, da budget ogni ora. Sei buona per le statistiche, i grafici inventati, sei tu sempre un numero in più tra gli occupati. Ma è il lavoro quello vero di cui ne hai bisogno? Quello lì non c'è più, non c'è più manco per sogno. È una storia solitaria, senza speranze, ordinaria. È un blues precario, precario solitario, precario solitario blues. Provare più rabbia o più dolore per chi dice che il posto fisso è noia, senza vergogna, senza pudore. Sai, c'è la crisi, lo vedi, non c'è lavoro, ma chi è disposto alla schiavitù ce n'è sempre di più. Ultimo giorno, le ore non passano e tu vuoi nascondere l'emozione. Giovanna, mi dispiace, vorresti dire, ma meglio che taci, niente baci. La telefonata che non arriva e non è mai arrivata. Solo una mail, neanche una sosta, questa è una fermata. È una storia solitaria, senza speranze, ordinaria. È un blues precario, precario solitario, precario solitario blues. Giovanna, da domani questa non sarà più la tua casa, domani per te sarà ancora tabula rasa. E tu cammina e cammina, sei sempre al punto di prima. Vuoi uscire, non trovi mai l'uscita, ogni passo che fai non è mai finita. Sei giovane, vedrai, sei giovane, vedrai, ti dico, troverai un posto, lo troverai. Sei giovane, vedrai, ma dai, lo troverai, ma dai, lo troverai. Ma pensa, pensa a chi è senza lavoro a 50 anni. Pensa a Juan, e l'avvenire è un buco nero in fondo al tra. Piero Carcano e Canti Sociali. Siamo quasi alla fine, cioè qualcuno già, devo dire. No, c'è la Grazia lì, ci sei Grazia? È già andata a casa, vedi? Siamo lì, siamo già tardi, ragazzi. Ah, sei lì, allora sei ancora qua. Tutto bene? Grazie, teniamo sveglia. Grazie, grazie. La Grazia è un punto di riferimento, non solo per il nostro spettacolo. Sciopero! Sciopero per i diritti! Perché lo sciopero sia efficace. Perché lo sciopero sia efficace, deve far male alla controparte. Si tratta di un'ovvietà, ma occorre ricordarla. Perché oggi lo sciopero, inteso come blocco della fabbrica o dell'attività produttiva, risulta assai spuntato. Non solo perché negli ultimi anni questo diritto è stato fortemente limitato dalle leggi sino a renderlo quasi inutile, ma anche in seguito alle mutate condizioni di produzione e di lavoro. Nell'epoca della grande fabbrica e della produzione per stock, lo sciopero era un'arma fondamentale e potente. Il blocco della produzione e la resa inagibile della fabbrica aveva un costo elevato per il padronato. Faceva appunto male. Oggi siamo invece in una situazione totalmente diversa. La produzione di merci e servizi è sempre più intangibile, e soprattutto la sua organizzazione è a flussi e non più a stock. La globalizzazione ha dato origine a catene internazionali del lavoro e del valore, dove non esiste più un luogo centrale di produzione, ma la sequenza di più nodi. Lo sciopero tradizionale può bloccare uno di questi nodi, ma non è più sufficiente per bloccare la produzione e quindi, appunto, fare male. Diventa necessario uno sciopero in grado di bloccare non tanto i singoli nodi, produttivi, ma i flussi tra i nodi. Si tratta di flussi di merci, di informazioni e di persone. Occorre immaginare quindi dei dispositivi che blocchino la mobilità delle merci. Tramite azioni che intervengono sugli snodi territoriali del trasporto, ad esempio i caselli delle autostrade. Occorre immaginare dei dispositivi che interrompano i flussi di informazione. Tramite azioni di hackeraggio sui principali service informatici. Occorre immaginare dei dispositivi che impediscano alle persone di spostarsi. Tramite scioperi selvaggi del trasporto pubblico. Lo sciopero senza preavviso della rete metropolitana di superficie dell'ATM di Milano del 1 dicembre 2003, ve lo ricordate? Da solo ha paralizzato l'attività lavorativa. Più di 400.000 persone non sono state in grado di raggiungere il posto di lavoro, come avveniva negli anni 70. Quando gli scioperi della Fiat a Torino si staccavano i pantografi per non far arrivare i tram che portavano gli operai al Lingotto o davanti ai cancelli di Mirafiori e si cantava... Tramite l'utilizzo continuo e costante di app e algoritmi sui cellulari, tablet, computer, eccetera, eccetera. La diffusione dei dispositivi di controllo a distanza, la Internet of Things, eccetera, eccetera, modificano il nostro rapporto con le macchine, aumentando il livello di alienazione e dipendenza tecnologica. Non solo. Grazie all'inserimento sempre più diffuso di parti meccaniche nel nostro corpo,

peggio. Grazie per la sopportazione. Alziamo le palette, quanto date questo voto a questa band. Allora, noi veniamo dal folk, anche dal B-folk, veniamo dal B-folk, canzoni con le mondine, abbiamo portato le mondine qua, vorrei un applauso perché abbiamo portato le mondine in Conchetta quando c'era ancora Primo Moroni. Abbiamo portato Pasolini anche qua. Ma adesso è l'ora per non parlare di Rodari, che l'abbiamo portato anche suonando il flauto fuori nel parco. Ma adesso c'era bisogno di cantare l'attualità, la sofferenza. E allora iniziamo alla batteria, Gabriele Pascale alias Bill Kreutzmann. Gabriele Pascale. Al basso Davide Puratti alias Phil Lesh. Alla chitarra ritmica il fratello di tante battaglie, quello che ha avuto il coraggio di inserire il centro tale del Gianluca, Gianni Rota alias Bob Weir e Jan Anderson. Questo spettacolo non si sarebbe potuto tenere perché la band non aveva mai avuto un chitarrista così bravo, così psichedelico, così elettrico come Mauro Apicella! Il novello Jerry Garcia! Alla voce cantante, autore di parti dei testi, compositore, senza il quale questo spettacolo non sarebbe mai nato, Piero Carcano alias Captain Trip. Qualcuno diceva che era stonato, ma dalle cose che diceva che ci colpiva il cuore, dalle cose economiche dell'altro, diceva: ma che cazzo può essere uno stonato, uno così? Andrea Fumagalli, autore dei testi, autore del suo libro stupendo Grateful Dead Economy, perché quanta psichedelia c'è nella nostra economia, lui l'ha tirata fuori assieme a Luis De Fregali. Andrea Fumagalli alias Bad Dream. Allora, in conclusione, prima dei 27 bis che chiederete, no? Vorrei comunicare che 60 anni fa, al Festival Folk di Newport nel 1965, c'è stata la svolta elettrica di un certo Bob Dylan. Oggi voi siete testimoni della svolta psichedelica del canto sociale. Ringraziamo Stanley, senza di lui filmati, regia, voci, luci dal cyberspazio, Stanley, nostro tecnico e regista. Vorrei ricordare che i testi che abbiamo letto contratti da Grateful Dead Economy e della piccola enciclopedia precaria. Stanley, vieni, Nicola, vieni, la vogliamo. Vieni qua, fatti vedere, Nicola, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, vieni. Il più psichedelico fra noi, tra l'altro. Guarda che se non scendi andiamo avanti a suonare per due ore qua, eh. Questo è un meglione, no? Domani mattina la colazione ce la paga il box. Grazie, grazie per la vostra generosità, grazie. Vi ricordo che chi volesse prendere le nostre magliette, le vostre magliette, chiediamo anche un gentile contributo per reggere le sorti di questa band un po' disgraziata, perché a furia di essere precarizzata questo, però abbiamo anche cose più interessanti tipo le nostre magliette che con un minimo contributo potete prendere, sono anche belle, i libri a cui abbiamo tratto questo spettacolo, che il piccolo dizionario della precarietà di Cristina Morini, che anche qua gli farei un applauso, e anche poi Grateful Dead Economy e le psichedelie finanziarie, un libro che tra l'altro tra un paio di mesi diventerà scritto tutto in inglese, per cui avremo anche, faremo le tournée a Londra, si vede. Quindi li abbiamo qua se volete venire a prenderli, modici prezzi, 15 euro penso sia il tutto. Grazie.